Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sarà abbattuta la casa natale di Adolf Hitler nell'Austria settentrionale a Braunau am Inn. Lo ha annunciato il ministro dell'interno austriaco. Il nuovo immobile sarà adibito a scopi filantropici o amministrativi. La decisione pone fine a una lunga diatriba giudiziaria sull'opportunità di conservare o meno l'immobile. Questa è la notizia. Così ha deciso il governo austriaco, sarà demolita la casa natale di Adolf Hitler e ci sarà costruito al suo posto una fondazione, un altro edificio, un'altra destinazione d'uso. C'è un motivo coerente, era luogo di pellegrinaggio dei nostalgici del nazismo. La domanda che ci facciamo e poniamo al pubblico questa mattina è se questo abbia un senso. Ha un senso demolire i sintomi di un passato, anche se questo passato è stato terrificante, anche se deve essere in qualche maniera esorcizzato, togliere i luoghi materiali anche di momenti orribili? In questo caso, riflettevo poco, anzi, è Adolf Hitler a tutti gli effetti la persona nel suo essere stato un terribile esempio, più significativa di tutto il Novecento. Il Novecento sarà ricordato per un uomo che ci ha messo di fronte al fatto che nel luogo più civilizzato, più avanzato dal punto di vista della cultura, della raffinatezza, del gusto, dell'arte, del pensiero filosofico, è accaduto qualcosa di terribile. È accaduto che delle persone normali, come ci sentiamo normali tutti noi, organizzassero, pianificassero con la complicità di tutta una popolazione uno sterminio di una parte dei cittadini del loro paese, soltanto per discriminazione di religione e di origine, di differenza soltanto ipotetica. Non perché avessero fatto qualcosa, perché erano appartenenti a una religione, a un popolo che consideravano parassita, nemico, da eliminare. E persone normalissime, ingegneri, maestri di scuola, massai, ragazzi, sono stati complici di questo sterminio, perché è una cosa che comunque galleggiava nell'aria. Non avranno materialmente messo le persone nei luoghi in cui sono state uccise, torturate, dissolte, ma comunque lo sapevano, un popolo stesso lo sapeva. E l'Europa stessa era consapevole di questo fatto. Anzi, il mondo civilizzato, dalle ultime informazioni e riletture storiche, era consapevole di questo eccidio. Vuoi per maniera strumentale, vuoi perché nell'equilibrio generale, tutti comunque l'hanno saputo. Quindi, diciamo, è l'uomo significativo che ci pone di fronte alla coscienza più profonda di quello che sia la dimensione umana. È un uomo che naturalmente ha ancora uno strascico di persone che lo considerano invece un illuminato, una persona che comunque aveva diritto di fare quello che ha fatto. Ma il luogo storico a cui è legata la sua memoria, la sua casa natale, la distruzione di questo luogo cosa comporta? Comporta, dal mio punto di vista, una nostra difficoltà nell'elaborare proprio l'aspetto che ci coinvolge di questo passato. La demolizione, secondo me, non porta mai nessun risultato. Voi come la pensate? Provate a spostare questo nella vostra esperienza personale, se avete difficoltà a farvi giudici di qualcosa che attraversa in maniera così profonda la storia. I ricordi delle vostre cose spiacevoli, quanti ne avrete? Figuriamoci, dalle fotografie delle persone che non avete più, i ricordi di momenti felici della vostra vita, di momenti infelici. Qualcuno tiene addirittura i calcoli di quando si è operato, le bende di quando si è fatto un'operazione, le stampelle di quando si è fatto male. Li tenete ancora, date un valore a un ricordo doloroso, ma ancora di più, ancora più profondo, ricordi delle persone che avete amato, che vi hanno amato, che non ci sono più, che si tiene ancora i cuoricini di San Valentino di tutte le fidanzate e fidanzati della sua vita, si tiene i regalucci che si erano fatti nei momenti d'amore, le persone non ci sono più, vestigi e brandelli di passati che ci fanno male. Ecco, preferite distruggerli e non parlarne mai più, non vederli mai più, non averne più un rapporto contaminante? O usare comunque il supporto di memoria dolorosa, di memoria terrificante, perché è giusto sempre richiamarlo alla memoria, è giusto sempre sapere, avere la consapevolezza che si possano gestire anche i momenti peggiori della propria esistenza. 800 24 00 24, a tra un istante. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. vi presenta Melog, cronache meridiane. La domanda è secca e precisa. Il governo austriaco ha deciso di demolire la casa natale di Adolf Hitler perché non rimanga come luogo di pellegrinaggio dei neonazisti. La domanda che facciamo è: giusto cancellare anche ricordi materiali di qualcosa che ci deve far riflettere, e comunque ci farà riflettere, e comunque fa parte della nostra memoria, che comunque, anche se è qualcosa che tutti vorrebbero cancellare dalla nostra coscienza, nessuno vuole immaginare, pensare che è suo nonno, i suoi parenti, le persone che comunque in qualche maniera hanno contribuito anche al suo pensiero, al suo modo d'essere, siano stati complici o abbiano pensato che sia normale lo sterminio di un popolo intero. Questo è simboleggiato dalla persona di Adolf Hitler. Adolf Hitler comunque aveva una casa natale, è stato bambino. Se vedete le foto di Hitler bambino, è un bambino tenerissimo. Ecco, quel bambino tenerissimo stava in quella casa, poi è diventato la più profonda traccia di tutto il Novecento. Traccia dolorosa e vergognosa, e comunque sia dolorosissima se ci riflettiamo. Beh, questa traccia deve essere cancellata, quello che rimane di questa traccia deve essere luogo di memoria comunque e di riflessione, e non soltanto la riflessione dei quattro idioti che vanno lì vestiti da camicie brune. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Come la buongiorno. Pensa? Come la pensa? Buongiorno. Ma innanzitutto complimenti per il suo eloquio, mi piacerebbe parlare come lei. A me piacerebbe fare tante cose come fanno tanti, ma non si può dire. Beh, questo è un dono naturale. Senta, io sono un antinazista, un antistermini, quindi la mia coscienza è veramente una persona moderatissima e i miei 70 anni lo dimostrano, ho fatto tante cose belle, ma io sono convinto che questa testimonianza va lasciata, testimonianza negativa, ma che ha un forte valore didattico, un forte valore pedagogico. Poi se qualcuno va lì a celebrare il nazismo sono cose che vanno controllate, ma io la mia riflessione è questa qua. Tanti stermini, altrettanto gravi quanto quelli dei poveri ebrei, sono stati perpetrati dall'umanità da sempre. Per esempio, faccio solo un esempio, gli indiani d'America sono stati sterminati, sono stati cacciati. Guardate quando viene programmato Balla coi lupi. Il popolo gli indiani d'America era un popolo pacifico, è stato sterminato e nessuno dice nulla. Lei dice di altri stermini, disegno diverso, diverso. E anche diciamo la cosa che più ci sconvolge, lo sterminio degli indiani d'America, che ancora prima inizia con i conquistadores, che in nome della religione ancora persiste, che in nome della religione vanno stanando dalla foresta gli ultimi, se ci sono ancora indio, che sono l'unico popolo che vive in armonia con la natura. Ho capito, però non facciamo di ogni erba un fascio. Mi scusi, io sto dicendo una cosa molto precisa, non voglio essere io a ricordarlo, sono sempre... è una cosina un pochino diversa, è un popolo civilizzato esattamente come siamo noi in questo momento, che bussa alla porta del vicino di casa con cui magari ha diviso il pianerottolo per anni e lo indica alle persone che lo porteranno a mettere in un forno. È una cosa un po' diversa, però adesso non è questo il problema. Il problema è se deve rimanere o no questa memoria. Vede che c'è bisogno che comunque rimanga, vede che la discussione comunque non è mai sufficientemente esaurita. Giuliano, buongiorno. Buongiorno Nicolini, la ringrazio per l'ospitalità. Grazie Giuliano. Sono un docente di storia e credo che sia uno sbaglio pedagogico e culturale unico demolire la casa di Hitler, perché corriamo il rischio di rendere il nostro nemico un martire. Io credo che non si faccia storia demonizzando l'avversario o demolendo, perché se fosse per questo bisognerebbe bruciare anche le sue opere scritte. Ma allora che differenza ci sarebbe con i roghi dei libri che sono avvenuti negli anni 30? Semplicemente questo. Sì, diciamo che poi è ancora più complessa. Chi è fortemente attratto da un mito della storia, fosse anche negativo, non è che si ferma di fronte al fatto che la casa venga distrutta. Il luogo fisico in cui si è prodotto l'evento della nascita di Hitler diventerà comunque un luogo sacro in ogni maniera. La gente andrà comunque lì a raccogliere il terriccio, perché è così che l'uomo attribuisce sacralità ai posti, fosse anche sacralità perversa. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. A Marco Pizzo ricordo che è direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, e vorrei chiedere a Marco Pizzo se esistono innanzitutto il suo parere, ma se esistono anche esempi in cui la storia ha voluto cancellare dei luoghi simbolici per non permettere che, si mantenesse la nostalgia per una storia che probabilmente non è certo una storia positiva per la civiltà e per l'umanità. Allora, diciamo che il criterio della damnatio memoriae, cioè cancello la memoria, è una cosa che insita all'interno della storia contemporanea, tant'è che anche in Italia, anche fino a pochissimi anni fa, si pensava di abbattere l'obelisco del Foro Italico perché c'era la scritta Dux, e sono state polemiche a non finire per la musealizzazione a Predappio della casa dei Mussolini. Sì, poi parleremo anche col sindaco di Predappio, ma immagino tutto, le opere di Sironi nascoste con dei pannelli, c'è stato di tutto, c'è stato. Di tutto c'è stato, però in maniera indelebile non è stato tolto nulla, perché più o meno c'è tutto ancora, o no? In Italia sì, c'è tutto, in altre parti no, si è tolto anche fisicamente molto. Ma il caso di Hitler è parzialmente diverso, perché la casa di Hitler è a tutti gli effetti un luogo della memoria, cioè un luogo che testimonia la nascita di Hitler, la nascita del nazismo, quindi la nascita del male assoluto dell'Europa del Novecento. Il problema è che farci con questo luogo della memoria. Anche se mi permetti, Marco, c'è una circostanza in più emotiva. Se noi lì in quella casa è nato Hitler, è stato i primi 3 anni di vita. Se noi guardiamo le foto, una volta feci questo esempio, misi nei social network la foto di un bambino tenerissimo, dolcissimo, bellissimo, faceva proprio tenerezza, altro che. E dicevo, questo bambino, se voi aveste saputo che da grande sarebbe diventato Hitler, l'aveste lasciato vivere? Mi mandarono 1000 improperi, però fu un esperimento interessante. Fa capire che il male tante volte non è che sia sempre con gli zoccoli da diavolo con la coda. Un bambino tenerissimo potrebbe diventare qualunque cosa. Quindi è una riflessione sulla banalità esteriore del male, anzi sull'aspetto a volte anche seducente del male. Non a caso uno dei più profondi scritti sul nazismo si chiama proprio la banalità del male. Tutto quello che è successo sembrava impossibile che succedesse in Europa, e il fatto che si voglia cancellare questo simbolo è una prova ulteriore che ancora noi non abbiamo fatto i conti definitivi con la storia del Novecento. Una cosa che io dico sempre, oramai sono annoiato di ripeterla, è che in Italia non esiste un museo di storia del Novecento. Io sono l'ultima propaggine storica e finisco nel 21. Nel Risorgimento, cioè la Prima Guerra Mondiale finisce. Alla Prima Guerra Mondiale si finisce, non c'è più storia, perché ancora non si sono fatti i conti con il nostro passato. Non a caso, diciamo, la robetta che metti te nei musei finisce con l'avvento del fascismo, poi non c'è sì, più altro. Esatto, io finisco col fascismo, finisco con l'inizio, cioè nel 21. Poi si sa qualche museo della Resistenza, ma quello che c'è in mezzo e quello che c'è dopo non viene raccontato. Ora, il racconto invece demonizza, cioè quello che toglie il demone è la narrazione, è la conoscenza. Se io distruggo la casa di Hitler o la casa di Mussolini o la casa di Stalin, cioè la memoria di un luogo, privo, è come se cacciassi la memoria in un adito che in qualche maniera non va conosciuto, di cui non si deve parlare. Invece tanto più se ne parla, tanto più si capisce che quello era il male. Fermo un attimo, sentiamo Valerio. Buongiorno Valerio. Buongiorno a lei. Senta, io parte di quello che avrei inteso dire è stato appena detto dal suo interlocutore, museografo e museologo. Io vorrei aggiungere anche un dettaglio. Uno dei momenti di acme nell'intento di abbattere l'obelisco del Foro Italico, che poi in realtà il progetto non era quello di abbattere l'obelisco, di cancellare la scritta Mussolini. Ma di cancellare la scritta Mussolini Dux, perché? Perché il Foro Italico, fortunatamente, è stato brillantemente utilizzato per le Olimpiadi di Roma del 60. Allora si riteneva che diciamo rimarcare in maniera così vistosa che alla fine tutto quell'impianto sportivo e tutto quel complesso era stato in fin dei conti impostato negli anni del fascismo sembrava una non grande figura da parte del paese. È un esempio di architettura fascista talmente limpido che sarebbe stato limpido, cretino. Ben fatto e assolutamente sarebbe stato cretino. La cosa più interessante è che il gruppo di politici che peroravano al massimo la causa della cancellazione, quindi della damnatio memoriae, in stile assolutamente egiziano, perché a me viene da pensare ai volti di Akhenaton scalpellati via dagli altorilievi egitti. Il gruppo che perorava la causa della cancellazione della memoria era costituito da democristiani, molti dei quali ex fascisti, beh, chiaro, non avevano esattamente un passato. Ma tutti, ma è chiaro, tutti i democristiani. Quello che si oppose ferocemente dicendo che se abbiamo paura di una scritta vuol dire che non siamo ancora abbastanza convinti di avere svoltato, fu l'onorevole Terracini, Partito Comunista Italiano. Il comunista capì che cancellarlo avrebbe creato ancora più. Il comunista disse è ridicolo, una sacralizzazione storicizzata, e disse in Parlamento che se si fosse cancellata la scritta Mussolini Dux sull'obelisco, allora teoricamente avrebbero dovuto scalpellare in metà Parigi tutti i riferimenti a Napoleone. Ma figuriamoci, ma avrebbero dovuto cancellare tutto l'Er, tutta Roma. Non è questo il discorso. Però vede, ha ragione il Marco Pizzo, nel senso abbiamo ancora un passato con cui non si sono ancora fatti i conti. La realtà è proprio questa. Valerio ha parlato. Giacinto. Ah, buongiorno, spengo la radio. Chiamo da Firenze e la ringrazio per avermi accettato nella sua trasmissione. Io la penso come ormai la pensano tutti, vedo, sento, cioè demolire la casa è non mi sembra una cosa opportuna. La storia non si cancella, la storia non si può eliminare. Sono stato recentemente ad Amburgo, lì c'è il museo della Marina, in una sezione c'è la Marina Militare, ci sono tutte le decorazioni, ci sono anche le decorazioni che Hitler ha dato a quello che ha silurato migliaia di tonnellate di mercantili che attraversavano l'Atlantico, con la croce di ferro di prima classe, diamanti e spade, non mi ricordo più. Comunque, io la trasformerei in un museo dove la gente, questa casa di Hitler, dove la gente può andare e vedere cosa ha combinato. Ha combinato delle nefandezze, ha combinato delle cose. Quindi comunque, mi sembra che finora la tesi di tutti gli ascoltatori, concludendola con Giacinto, poi ci sentiamo fra un istante, è quella che tutti trovano che sia illogico cancellare qualcosa che comunque deve rimanere, perché la riflessione continui, perché non si cancelli l'idea che potrebbe accadere in ogni momento della nostra storia che l'umanità impazzisca o che l'umanità, che sembra apparentemente normale, compia delle nefandezze indicibili. 800240024, fermiamoci un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, che la casa di Hitler debba rimanere in piedi me lo fortifica come convincimento l'SMS che mi è stato mandato adesso. Rido perché è talmente stupido quello che lo manda, non sapendo che il suo numero di telefono è qui davanti a me, lo vedo ben visibile. Mi scrive: il miglior sapone resta sempre quello di ebreo. Pensa di essere spiritoso, pensa di essere impavido, pensa di poter dire qualcosa controcorrente. Cos'è di controcorrente l'idiozia che lei sta dicendo? Non c'è nulla di controcorrente, lo penseranno ancora tante persone. È sinanco banale essere di questa convinzione. Pensi quello che vuole, ma consideri il fatto che davanti il suo numero di telefono, potrei chiamarla in questo momento, potrei dirle, abbia il coraggio di dirla ad alta voce davanti a tutti. Pensi un attimo, trasformato in sapone qualche persona a lei cara, semplicemente per un motivo del tutto banale, perché è nato con un cognome invece di un altro. Ma poi non faccio il buonista, non sono un buono, resti nella sua meschinità, e mi fa perfino sorridere quanto possa essere stupida una persona. Stefano, buongiorno. Pronto? Sì. Ecco, per esempio, io dicevo proprio questo, allora si dovrebbe, perché togliere di mezzo anche i campi di concentramento. Ma no, quelli, i primi a volerli distruggere sono proprio i reduci del nazismo, hanno provato a cancellarli, c'è stato tutto un moto di pensiero per cui si diceva che non fossero mai esistiti, che fosse un falso storico. Non è proprio esattamente la stessa cosa, qua si parla della mitizzazione di un essere umano che ha un discrimine talmente forte quando una persona agisce in maniera così preponderante nella storia dell'umanità, divide a metà le persone. O c'è chi vorrebbe cancellare totalmente la sua memoria e chi invece lo considera un illuminato, lo considera una persona come un esempio da seguire, come il cretino che ha scritto prima: miglior sapone rimane quello degli ebrei. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire una cosa. Praticamente il professore di prima ha detto che è la storia che alla fine bisogna fare i conti con essa, no? Bisogna assolutamente al più presto possibile stendere una storia europea condivisa, un'antologia europea, così tutto, cioè c'è il tempo proprio per digerire tutto. Queste cose i professori già 20 anni fa mi dicevano, ma l'Europa su cosa si fonda? Cioè, chissà, rispondo a questa domanda, se avete studiato una storia europea sarà più facile rispondere. Lei dice comunque, sì, molte domande che ancora ci facciamo, molti dubbi, molte perplessità che ancora ci facciamo sul concetto d'Europa, avrebbero comunque un terreno ancora più limaccioso su cui affondarsi se cancellassimo il ricordo, le vestigia, le cose che emotivamente mettiamo ancora più... Mettiamo in chiaro tutto, perché io capisco, cioè capisco quelli che hanno commesso i crimini, che non vogliono più vedere niente perché si sono veramente, proprio si strappano l'anima per... magari per certe cose che hanno fatto, no? Mi rendo conto che chi abita in quella città dell'Austria si senta comunque... Che tutti i giorni passa lì davanti e ha detto, figlio, io ho ammazzato delle persone, no? Sì, non ma comunque uno niente. Nasce a Branau, dice, dove sei nato? Nella città dove è nato Hitler. Non è... tenderanno a volere le amministrazioni cancellare il più possibile questa idea, ma pensi, è un po' difficile, sì. Pensi che semplicemente, non so, una coppia si divide, no? La prima cosa che fa... la donna prima di tirare in casa un altro uomo cambiare il letto, sempre, almeno, beh, certo. Se. Cioè non vuol più niente proprio del passato. È anche un motivo, no? Igienico, mischiare le piattole non è mai piacevole, questo me ne rendo conto, lo so, mi sembra molto ottimistico il fatto che le donne vogliono cambiare il letto, perché secondo me nessuno cambia niente, anzi lo stesso letto può essere usato sia da uomini che donne in maniera promiscua con vari avvicendamenti. Comunque diciamo che quando finisce un amore uno cancella tutte le vestigia del vecchio, che però, come sa, rimangono appiccicate alle mura, rimangono appiccicate. Non so se lei mai ha frequentato una casa dove c'erano stati altri uomini prima di lei. È inutile, la presenza c'è, la immagina, è piena di fantasmi. Dice, questo divano dove oggi mi abbraccia appassionato e magari prima lo faceva con un'altra donna o con un altro uomo a seconda del motivo dell'interesse, su questa seggiolina in cui mi guarda con gli occhi rapiti c'era seduto un altro, su questo letto in cui sto bello spaparanzato e mi sento un pascià o mi sento uno da Lisca prima c'era qualcun altro. È inutile, la traccia rimane. Giorgio Frassinetti, buongiorno. Buongiorno. Giorgio Frassinetti, oggi proprio il personaggio ci può rispondere meglio. Giorgio Frassinetti è sindaco di Predappio, quindi si trova nella stessa condizione in cui si trovano appunto i governatori della città natale di Hitler che vogliono abbattere la casa natale di Hitler. Lei ha fatto qualcosa di totalmente contrario, mi pare, opposto a questo tipo di atteggiamento. Sì. Io conosco bene il sindaco di Braunau, Johannes Weidbach. Ah, vi conoscete in quanto... Sì, siamo amici, nel senso che io sono stato... Ma amici perché uno è il sindaco della Casa del Duce, l'altro è il sindaco della Casa di Hitler. Hanno fatto un convegno nel 2011 dove hanno invitato i sindaci delle città di Stalin, Mussolini e Hitler. Quindi hanno fatto questo convegno nella città natale di Hitler. Ed è il problema delle città che hanno questa memoria così pesante, ingombrante, fatta di persone, insomma, di criminali. Ma mi faccia capire meglio l'atteggiamento del sindaco, visto che vi conoscete, secondo lei? Lui ha una grande paura, cioè lui vorrebbe che non se ne parlasse proprio, mentre invece è costretto tutti i giorni ad affrontare il tema. Ed è partito tempo fa un russo che voleva demolire la casa. Oggi il governo austriaco non ha un atteggiamento uniforme rispetto a che futuro deve avere quell'edificio. Perché il ministro degli interni fa la politica più facile, forse più ignorante, cioè lo demoliamo e così ci togliamo il problema. Mentre invece il ministro delle politiche sociali ha tutto un altro atteggiamento e in qualche modo si è dimostrato questa divisione. Gli austriaci mi hanno premiato, il 3 settembre io ho ricevuto il premio dell'antifascista dell'anno, secondo loro, il Memorial Holocaust Award. Cioè il riconoscimento per chi ha, diciamo, mantenuto viva la memoria dell'Olocausto. Perché ho un atteggiamento nei confronti della storia che è quello di non demolire, cioè di non fare finta che non è successo niente. Ecco, spieghiamo per chi non lo sapesse che lei è un sindaco PD, quindi non è un sindaco, diciamo, con simpatie neofasciste, così lo chiariamo. Certo, no, io di sinistra per generazioni, ma però sono nato a Predappio. E quindi ci siamo posti il problema di cosa fare per uscire dall'isolamento, dal pregiudizio, dalla banalizzazione della storia, della rimozione. Ma lei l'ha visto plausibile? Non è mai passata nelle amministrazioni di Predappio dal 45 in poi l'idea distruggiamo la casa natale del Duce? Sì, all'inizio sì, ma non partiva da Predappio, partiva sempre da qualcuno che aveva dei desideri, ma che non vivevano la nostra città. Cioè, noi siamo, quando fu riportata la salma di Mussolini nel 57 a Predappio, il presidente del consiglio era un uomo di Predappio, si chiamava Adone Zoli. A casa di Adone era nata donna Rachele. Lui però, prima di riportare la salma di Mussolini, che era tenuta nascosto a Cerro Maggiore, chiede al sindaco comunista di Predappio, Egidio Proli, se fosse d'accordo. E lui rispose come risponde un predappiese: non ci ha fatto paura da vivo, non ce ne farà neanche da morto. So come dire. E quindi in questa frase, che c'è anche un po' di guasconeria romagnola, però denuncia proprio l'atteggiamento che noi dobbiamo tenere nei confronti della storia e della memoria. Dobbiamo avere lo sforzo di conquistarci occhi nuovi per vedere quella storia lì. Ecco, ma lei, signor sindaco, ha mai parlato col suo collega austriaco cercando di portarlo su questo concetto? Vi siete confrontati su questa cosa? Lui ha una gran... cioè, io non mi sono mai permesso di consigliarlo. Le stavi facendo? Però, lui ha una gran paura, stava dicendo. Lui ha una gran paura, vorrebbe insomma che fa il sindaco di un'altra città. Sì, ma come si rende conto? Come fa a cancellare l'idea che lì sia nato Hitler dalla memoria? È possibile. Cosa ci vuole fare? Le gite scolastiche, i viaggi, vacanze? Quello è, uno deve anche prendersi il carico del posto dove nasce, dove abita, no? Ma io so che l'ipotesi che alleggia nel suo ufficio è quello di farci un supermercato. Secondo me è proprio cioè per me non è la soluzione ma giusta. Ma immagini... cioè immagini un luogo dove c'è l'uomo che ha in qualche maniera determinato la messa al forno di milioni di persone, dal forno crematorio metterci un supermercato, ma una cosa mi sembra totale. Guardi, fermo un attimo, però sindaco, diamo un attimo la linea che me la stanno chiedendo, poi riprendo con lei, con Marco Pizzo, tra un istante. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Melog, cronache meridiane. A me fa sorridere, ieri proprio ho fatto la trasmissione sullo spessore del giornalismo inteso come professione e inteso come semplicemente mettere un messaggio in rete. Nicoletti, raccontala tutta su Predappio, cioè il complotto. La rossa regione Emilia Romagna vuol far chiudere tutti i negozi di gadget fascisti. Chi compra in quei negozi magari si ferma anche per un gelato, per un pranzo, per un pernottamento. Raccontacelo. Daniele di Firenze. Sindaco Frassinetti, non so cosa voglia dire. Spieghi bene esattamente cosa sta accadendo a Predappio, cosa c'entra la regione Emilia Romagna, così smontiamo questo complotto. Ma guardi, i negozi ci sono dal 1995 e li ha fatti aprire un sindaco di un partito che era il PDS. Io non li voglio far chiudere. C'è un disegno di legge da parte dell'onorevole Fiano che mira a vietare la vendita al commercio dei simboli fascisti. Ma io lo sa che non sono d'accordo. Per me continua a comprarsi tutti i capoccioni che vogliono, i magrelli con scritto Dux. Cioè, se si diverte con questo. Ma fa morire da ridere. Cioè, non è che uno può spaventarsi. Perché poi ci sarebbe lo spaccio clandestino, capito? Uno ti fermerebbe per strada: oh, c'ho un gagliardetto, quanto mi dai? Fa ridere, poi fa veramente ridere. Lo dico, io ho la casa piena di vestigia dei nonni. Figuriamoci. Di Predappio, nel tavolo c'è intarsiato un grande fascio. Cosa faccio? Lo cavo. Tengo lì, ma Roma è piena di fasci, un po' ne hanno scalcinati, ma un po' ce ne sono, un po' difficile, poi basta. Noi non dobbiamo utilizzare la politica del caterpillar, noi dobbiamo utilizzare la più grande arma che ha chiamato da volta di distruzione dell'ignoranza, che è la cultura. La cultura, la ricerca, solo quella ci regalerà occhi nuovi per poter andare avanti e per affrontare queste politiche che non sappiamo affrontare anche a livello europeo, come l'economia, l'immigrazione. Beh, noi stiamo assistendo alla nascita dei nazionalismi in Europa e sembra che sia fresca, ma è pericolosissimo. E cosa lo fai? Negando la storia? Marco Pizzo, Marco Pizzo, riprendiamo il direttore del Museo Centrale Risorgimento, l'abbiamo tenuto finora in disparte. Marco Pizzo, sentito, sono due esempi in antitesi e non sapevo questa cosa che i sindaci delle città dei dittatori si vedono, fanno parte di una sorta di club. Ecco, vediamo di aggiungere un pochino, se è possibile mai capire, cosa faresti te se avessi a disposizione la disponibilità di trasformare la casa natale di Hitler in qualcosa che mantenga viva la memoria? La cosa migliore è cercare di trasformare quello che è un luogo simbolo negativo della nascita del nazismo, facendo vedere cosa è stato il nazismo, cioè trasformarla nel suo opposto, far vedere il nazismo dei rastrellamenti, della Shoah, della distruzione di massa degli ebrei, la casa di Hitler, far vedere quello che ha prodotto l'uomo, cioè trasformarlo nel suo opposto. Ecco, questo però è una dichiarazione di principio. Il sindaco Frassinetti ci ha svelato qualcosa che nei giornali non è scritto ancora, io lo conosco il sindaco, se la fa sotto, c'ha paura, non ne può più di sentire che vengono lì perché c'è la casa di Hitler. È una dimensione umana, probabilmente gli mancano proprio gli strumenti di creatività culturale per far sì che quella paura la trasformi in qualcosa di positivo. No, il sindaco di Predappio, dobbiamo ricordarlo, che la città di Predappio negli anni 50 ebbe sì la tomba di Mussolini, ma che venne trafugata in maniera fortunosa, cioè andarono a rubare il corpo di Mussolini. Cioè anche noi abbiamo avuto di questi casi di idiozia allo stato puro, e queste cose si fanno solo puntualizzando la differenza che c'è tra la memoria e la celebrazione. Noi abbiamo avuto un caso madornale nel Lazio, che si voleva costruire un mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani. Sì, mi ricordo, certo. Un gerarca nazista che ci siamo dimenticati che è l'autore della più grande strage di cristiani etiopi del 37. Cioè uno stragista. Usava i gas, sì, certo. Ma tra l'altro di monaci inermi, cattolici, cristiani, li ha distrutti tutti, punto. E noi che cosa volevamo fare? Costruire un monumento. Ecco, quello è un evento di celebrazione che va assolutamente condannato. Ma invece la distruzione del luogo memoria e del luogo simbolo va mantenuto, trasformandolo in una maniera per far capire quello che è successo. Sentiamo due ascoltatori. Damiano, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, guardi, lei ha sicuramente degli ospiti molto, molto capaci, hanno detto un sacco di cose su cui sono completamente d'accordo. Però io pensavo che quando ho chiamato tutti stavano dicendo che la casa andava assolutamente mantenuta perché è un esempio storico, eccetera. Io invece credo che vada cambiata di destinazione, in questo mi sembra che c'erano anche altri. No, mi fa piacere Damiano, perché finalmente, se no sembra che è unanime, finalmente una persona che dice per me va cancellata, vorrei capire anche sì. Il suo punto di vista. Sì, no, il mio punto di vista è che va cancellata per una serie di motivi. Lei ha detto che Hitler è nato lì ed era un bambino molto tenero, no? E secondo me ti posso interrompere un attimo? Non c'era il diavolo che no, ti interrompo un attimo per far capire. Prima avevo citato un sms di uno che scriveva: il miglior sapone è quello degli ebrei. Non l'ho minacciato, ho detto semplicemente ho il suo numero di telefono. Ha chiamato adesso con la coda tra le gambe dicendo no, scusate, il messaggio era incompleto, volevo dire che era una citazione di quello che dicevano i nazisti. No, per farti capire come poi i lupi più scatenati diventano agnelli appena sentono qualcuno che gli accende il fuoco certo. Sotto la coda. Scusami che ti ho interrotto, certo. Ma devo citare l'infingardaggine di questo signore, che la sua vigliaccheria non gli fa nemmeno onore di poter impugnare un'idea perversa. L'avrei rispettato di più, prego. Infatti, giusto. Quando lei ha detto che lì ci ha abitato Hitler ed era un bimbo tenero e innocente, no? In fondo quel posto non rappresenta il diavolo che Hitler è stato, e quindi in realtà non ne rappresenta nessuna memoria che a noi... Lei ha ragione, però io la vedo dal mio punto di vista. Vedere quel bambino e pensare che diventa una cosa orribile fa pensare che l'orripilanza si nasconde anche negli occhi innocenti di chiunque. Non bisogna mai abbandonare la guardia. Comunque ringrazio lei e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questa riflessione. Alla prossima.